del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in nostro aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Alleluia. Alla cena dell'agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore. Il suo corpo, arso d'amore, sulla mensa è pane vivo. Il suo sangue sull'altare, calice del nuovo patto. In questo vespro mirabile tornano gli antichi prodigi. Un braccio potente ci salva dall'angelo distruttore. Mite agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua. Il suo corpo adorabile è il vero pane altimo. Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, o Signore. Unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Sia lode e onore a Cristo, vincitore della morte, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen. Il Signore ha liberato la mia vita dall'angoscia della morte. Alleluia. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Mi stringevano funi di morte. Ero preso nei lacci degli infelici. Mi opprimevano tristezza e angoscia e ho invocato il nome del Signore. Ti prego, Signore, salvami. Buono e giusto è il Signore. Il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge gli umili. Ero misero ed egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, alla tua pace, poiché il Signore ti ha beneficato. Egli mi ha sottratto dalla morte, ha liberato i miei occhi dalle lacrime, ha preservato i miei piedi dalla caduta. Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ha liberato la mia vita dall'angoscia della morte. Alleluia. Come la pupilla dei suoi occhi, il Signore custodisce il suo popolo. Alleluia. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenta, non prende sonno, il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. come la pupilla dei suoi occhi, il Signore custodisce il suo popolo. Alleluia. Mia forza e mia gloria è il Signore, è Lui la mia salvezza. Alleluia. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio Onnipotente. Giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti. Chi non temerà il tuo nome, chi non ti glorificherà, o Signore, tu solo sei santo. Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si postreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mia forza, e mia gloria è il Signore. È Lui la mia salvezza. Alleluia. Alleluia. Quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. E questo perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia. Tu sei risorto dai morti. Alleluia, alleluia. Alleluia. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Alleluia, alleluia. Patì la dura croce colui che vinse l'inferno. Ora è vestito di forza, risorto nella gloria. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri dei loro cuori. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Patì la dura croce colui che vinse l'inferno. Ora è vestito di forza, risorto nella gloria. Alleluia. Alleluia. Preghiamo unanimi il Cristo, fonte della vita e principio di ogni santità. Regna in mezzo a noi, Signore. Signore. Gesù Salvatore, crocifisso secondo la carne, perennemente vivo e vivificante nello spirito. Che morti al peccato, viviamo la vita nuova secondo lo spirito. Tu che hai mandato i discepoli a predicare il Vangelo ad ogni creatura, sostieni con il tuo spirito i missionari della tua parola. Tu che hai ricevuto dal Padre ogni potere in cielo e in terra per rendere testimonianza alla verità, guida con la tua sapienza coloro che ci governano. Tu che ci comandi di attendere operosi e vigilanti la tua venuta nella gloria, fa che quanto più attendiamo i cieli nuovi e la terra nuova, tanto più lavoriamo per il progresso e la pace. Sei sceso agli inferi per portare agli antichi padri l'annunzio della salvezza. Riunisci nella gioia eterna tutti i nostri morti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Padre misericordioso, che hai voluto che il tuo figlio subisse per noi il supplizio della croce per liberarci dal potere del nemico, donaci di giungere alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Grazie Flavia, ti portiamo nel cuore nella preghiera del Rosario. Grazie a voi. Pace e gioia a te, a presto. Ciao Flavia. Ciao Adam.